Salva Danaio. Bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Salva Danaio. Scusate, sto spostando il microfono mentre parlo, cosa che non bisognerebbe fare. Parliamo oggi di Natale, dello shopping online per i regali di Natale. Questo il tema di Salva Danaio, perché le feste sono vicini, ovviamente tra tasse, IMU, ne abbiamo parlato ieri, incertezze del panorama economico e lavorativo, prezzi in salita, insomma la tredicesima, per chi ha la fortuna di averla, di quest'anno verrà messa seriamente alla prova. E quindi fare dei regali è sempre più difficile. Nella speranza di ottenere dei buoni prezzi, chi ha poco tempo vuole magari risparmiare, spesso si rivolge a internet. Almeno questo sembra dire una tendenza in crescita rispetto a questo tipo di canali. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Politecnico di Milano Netcom, sono oltre 12 milioni gli italiani che acquistano online, con una crescita del 30% rispetto al 2011. Un dato che conferma come il web sia diventato un canale complementare allo shopping tradizionale. Come sempre più persone scelgano di affidarsi quindi a internet per effettuare acquisti combinando qualità, convenienza e praticità. Il valore degli acquisti potrebbe superare nel 2012 9 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al 2011. E quindi facciamo una panoramica sulle diverse possibilità di acquisto online, sugli strumenti utili al consumatore anche per tutelarsi, per assicurarsi un reale risparmio. Abbiamo organizzato la puntata di oggi in sezioni per toccare i diversi temi che possono interessarvi. Parliamo tra poco, quindi partiamo parlando dei portali di commercio online, ma prima di fare tutto questo vi ricordo il numero per chiamarci: 800 24 00 24 o per mandarci degli sms al 349 238 6666. E parliamo, prima appunto del tema, di qualcosa che ha a che fare con i mercati e lo spread. Mercati e spread che in questi giorni sono ancora di più sotto i riflettori, visto la crisi politica e le oscillazioni. In particolare lunedì, come sapete, c'è stata una giornata di tensione sui mercati. Oggi una giornata particolare perché c'è stata un'asta dei bot annuali a 12 mesi, un'asta che è andata molto bene, è migliorata la domanda per i titoli di Stato. Gli investitori nell'asta hanno chiesto 12,6 miliardi di euro di titoli, quasi il doppio rispetto ai 6,5 miliardi offerti e collocati dal Tesoro. Quindi buone notizie, il tasso è in calo a 1,456%, minimo da marzo. Le borse stanno andando bene, anche Piazza Affari, FTSE MIBA più 0,33%, Francoforte più 0,27%, Parigi in leggero calo meno 0,09%, Londra più 0,22%. Le borse, dicevamo, sono sostenute in parte dall'ottimismo con cui gli investitori guardano alla riunione della Federal Reserve, che potrebbe espandere ulteriormente le sue misure di stimolo economico. A Piazza Affari, nel paniere fra i titoli a maggiore capitalizzazione, segnaliamo il rialzo di Mediaset, che guadagna il 3,44%. Dopo il ritorno in politica in Berlusconi, il titolo sta andando molto bene, in pregilo più 2,81%. Ieri la società ha presentato agli analisti il piano industriale 2013-2015, che pare piacere molto agli investitori. Poi Mediolanum più 1,59%, bene un po' tutte le banche: Monte dei Paschi più 1,4%, Banco Popolare più 1,18%, Popolare di Milano più 1,09%, Mediobanca più 1,02%. Va bene anche Telecom Italia più 1,29%. Fra gli altri titoli Enel più 0,47% in questo istante, Eni meno 0,22%, negativa invece fra le banche Unicredit, vedo ora, meno 0,23%. Tra i titoli invece venduti, Pirelli meno 0,56%, ST Microelectronics meno 0,38%, in questo caso è stata colpita dalle vendite dopo il balzo di lunedì. Male anche Parmalat, meno 1,15%, e sul titolo influisce, sull'andamento del titolo influiscono ovviamente le vicende giudiziarie che riguardano Lactalis. Per quanto riguarda l'euro sul dollaro, a 1,3026, mentre lo spread BTP e Bund è sui minimi di seduta, a un passo dai 330 punti dopo l'asta dei bot di cui parlavamo prima. e chiudiamo così la nostra pagina economico-finanziaria. Torniamo a parlare oggi di un tema che sarà molto caro a molti di voi che cercano magari qualche offerta su internet proprio in questi giorni in vista del Natale. 800 24 00 24 per chiamarci, 349 238 6666 invece per scriverci via SMS. Adesso sentiamo i particolari che la nostra redazione ha riassunto in questa scheda. La vera soluzione anticrisi in vista del Natale? A detta di molti, potrebbe essere l'e-commerce. Secondo i dati del Politecnico di Milano, il valore del commercio online potrebbe superare nel 2012 i 9,1 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al 2011. Per chi, anche in un periodo difficile per le finanze familiari, non vuole rinunciare alla tradizione del dono, acquisti online, gruppi d'acquisto e social shopping, aste, vendite evento potrebbero rappresentare occasioni di risparmio di tempo e denaro, capaci di unire la qualità alla convenienza. Se da un lato gli italiani stanno lasciando da parte i dubbi sugli acquisti via internet, dall'altro non mancano le lamentele e le preoccupazioni rispetto ai possibili disservizi. Bisogna fare i conti con overbooking e difficoltà di prenotazione, ma anche con i tempi di consegna. Non ci si può decidere il giorno della vigilia e con le consegne di prodotti non corrispondenti alle richieste. Il consumatore deve quindi tenere gli occhi aperti in tutte le fasi d'acquisto, dalla scelta del prodotto fino al momento della consegna, e affidarsi a portali e intermediari seri. Vanno quindi evitati i rischi e superate le diffidenze, ma se davvero, come prevedono alcune ricerche, oltre 5 milioni di italiani acquisteranno quest'anno i regali sul web, 1 milione in più rispetto allo scorso anno, quello che si avvicina potrebbe essere definito il primo Natale online della storia. Allora, ve lo ripeto, 800 24 0024 per chiamarci. C'è già un ascoltatore a cui chiedo di avere pazienza, è già in linea un ascoltatore, perché devo salutare innanzitutto gli ospiti per questa prima parte, per questi diciamo primi 10 minuti. Edoardo Giorgetti, amministratore delegato di Banzai Commerce, buongiorno. Buongiorno. E Andreas Schmeider, spero di averlo pronunciato bene, Country Manager Schmeider. Italia di, ecco appunto, di Vend Privé. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, parliamo con voi di portali di commercio online, perché sia Banzai che Vend Privé fanno parte di questa categoria, no? Volevo capire innanzitutto a chi si rivolgono, di cosa si occupano. Giorgetti. Dunque, Banzai ha due marchi, uno si chiama iPrice e vende iTech, e un altro Saldi Privati, che fa un lavoro molto simile a Vend Privé, che vende principalmente abbigliamento. Ecco, quindi due categorie di prodotti un po' diversi. Quali sono le previsioni per questo Natale? Ma le confermo che il fatturato sta aumentando molto rispetto all'anno scorso. Abbiamo notato soprattutto un anticipo degli acquisti quest'anno, nel senso che è partito prima il Natale, quindi davvero forse è il Natale online, davvero come avete detto nel servizio. I nostri clienti stanno acquistando più prodotti per ordine del solito, segno che stanno comprando anche per altre persone. Abbiamo fatto una survey, un questionario per chiedere, insomma, per verificare la cosa, ed è confermato, nel senso che con la crisi, ma non solo per la crisi, c'è la tendenza ad usare il web per fare i regali. Dico non solo la crisi, perché il risparmio c'è sicuramente, è una caratteristica dell'e-commerce da sempre, ma c'è anche un tema di comodità e di scelta che sicuramente quando si fa i regali è importante. In Saldi Privati, per esempio, ci sono dei prodotti molto scontati, perché sono come i saldi di fatto, anche se sono tutto l'anno e tutti i giorni, e quindi se uno vuole regalare, oggi ci sono le sciarpe, per esempio, molto belle, sono molto scontate, si ha un bel effetto nel fare il regalo, no? Perché l'hai pagato poco, ma è comunque un prodotto di grande qualità. E nell'iTech invece hai tantissima scelta, quindi riesci a trovare anche un prodotto che magari non solo costa meno che in negozio, ma magari è proprio quella, la cosa un po' particolare che nel negozio fai più fatica a trovare. E quindi insomma è un po' il prezzo e la comodità. Mi pare di capire che vi caratterizzate per questo pick and pay, cioè pagare online e ritirare nei punti vendita, quindi avete dei punti vendita? Sì, non sono in realtà di vendita, sono solo di ritiro. Noi siamo stati i primi a lanciarlo qualche anno fa, ma è una cosa che sta diventando molto di moda in tutto il mondo ed è una cosa che sembra un controsenso, quello di comprare online e poi andare a ritirare il prodotto. In realtà i motivi per cui questa formula funziona molto bene sono di fatto sono una cinquantina di punti dove si vanno a ritirare gli acquisti in Italia. Sostanzialmente il vantaggio è da un lato un po' il risparmio perché costa un po' meno della consegna col corriere, ma soprattutto è la libertà di poter andare quando fa comodo, perché molti di noi, io per primo, non abbiamo la portineria, quindi ricevere a casa il prodotto non sempre è così comodo come sarebbe in teoria, e poi la possibilità di pagare alla consegna anche con i contanti e il pago bancomat. Ora, io penso che la paura delle carte di credito in realtà non ci sia così tanto, sia sempre stato un po' un falso mito, ma sicuramente è molto comodo il fatto di andare online, comprare il prodotto, non dover inserire nulla, nel senso che bastano pochi clic e l'ordine è fatto, e poi invece andare nel punto vendita a completare il pagamento in maniera assolutamente abituale. Sì, di contro c'è il fatto che con l'acquisto online che ti arriva a casa il prodotto invece non ti devi proprio muovere da casa, in questo caso ovviamente ti devi muovere da casa. Diciamo che hai la doppia scelta. Ed certo, è una formula abbiamo che capito. Sta piacendo molto. E quindi c'è questa formula. Invece, Schmeidler, lei ovviamente Country Manager Italia di Vendprivé, ovviamente Vendprivé è molto conosciuto. Di cosa vi occupate e quali sono le previsioni per il Natale? Dunque, Vendprivé è nato nel 2001 come pioniere delle vendite evento online, che sono le vendite evento sono delle vendite che durano 2-3 giorni, nel quale ha una community dove ci si iscrive solamente o più che altro per invito, si offre un'opportunità di, in maniera esclusiva di avere diritto a degli eventi creati da Vendprivé assieme ai brand, e noi lavoriamo unicamente con i brand, per una o due volte l'anno, nel quale dentro questi eventi si può trovare un'offerta esclusiva che chiaramente ha come core business il prodotto a prezzo scontato. Per quali articoli? Un po' di tutto. Esatto, Vendprivé, noi vendiamo 27 categorie merceologiche, noi passiamo dall'abbigliamento uomo-donna piuttosto che agli accessori e gioielli, ma facciamo anche auto, moto, biglietti per concerti, gastronomia, gioielli, arredamento, design e tutto, vino, moltissimo. Quali sono le previsioni? Dunque, le nostre previsioni sono, le posso dare un dato che è abbastanza significativo sul periodo ottobre-novembre. Da noi, specialmente in Italia, il traffico è cresciuto del 55% e supponiamo che sia anche una conseguenza anche della crisi riferita al periodo natalizio. Ma soprattutto gli ordini sono cresciuti del 70%, con un aumento del carrello medio di più del 25%. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che soprattutto su un periodo come il Natale, un servizio come Vendprivé, che possiamo dire abbina qualità e convenienza, può essere una vera opportunità. Inoltre vediamo che in questo periodo i gusti dei membri di Vendprivé, che sono oltre 17 milioni in Europa e 1,2 milioni in Italia, si differenziano rispetto a un periodo normale. Esempio, orologi, gioielli, articoli per la scrittura, accessori per letteria sono, diciamo, gli articoli più ricercati, ottenendo anche delle informazioni a livello marketing che sono molto utili per noi. Ad esempio, gli orologi e i gioielli, in questo caso, sono gli uomini che acquistano gli articoli più costosi. Il food o il wine, là ancora di più, gli uomini sono coloro che a cui noi ci indirizziamo ancora più molto volentieri. Nel caso della biancheria invece è il contrario, nella biancheria maschile il 70% degli acquisti viene fatto dalle donne. Benissimo, questi sono solo alcuni degli articoli, ma abbiamo in linea alcuni ascoltatori a cui darei anche la parola. Cristian da Verona, grazie per la pazienza, qual è il suo caso che ci vuole esporre? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi spiace essere il primo e purtroppo il primo che lancia il sasso negativo. Però, no, lo lanci. Guardi, ho messo giù il telefono un quarto d'ora fa con mia moglie, che dovrà prendere la macchina e andare a cercare il regalo per nostro figlio, appunto perché ha ordinato il mese scorso su internet, non in questi siti che avete appena detto, ma in altri che insomma, penso sia inutile fare il nome. E, allarmati appunto perché questo pacco non arriva, così scriviamo a questo centro per sapere dove è finito il nostro pacco, ci rispondono il giorno dopo, quindi questa mattina, che praticamente lo stock a magazzino è finito, quindi i tempi si allungherebbero, quindi mi danno dei ritorni, mi riaccreditano i 50,82 euro sulla carta di credito, ma che dovrò quindi arrangiarmi per trovare ho questo capito. Regalo. Insomma. Quindi siete alla ricerca fisica del regalo. Certo, andate su internet per avere un risparmio, alla fine dovremmo pagarlo, ecco, questo normale. Però, ho capito, Christian, grazie di aver lanciato il sasso, perché in effetti ci sono tante storie di successo di ordini online, ci sono anche delle storie insomma di persone che sono scontente perché, come nel caso di Christian, in questo caso insomma non c'era in stock l'ordine, il giocattolo che aveva richiesto. Giorgetti, può succedere in questo caso? In effetti il consumatore rimane un po' col cerino in mano. Beh sì, allora diciamo magari il cerino nel senso letterale, no, nel senso che se il merchant, se il venditore è serio, restituisce i soldi. Sì, lui ha detto che sono ha avuto i soldi indietro, ecco. Però insomma deve ricercare un regalo. Guardi, io sono molto trasparente in queste cose, non deve succedere, per fortuna succede abbastanza raramente, nel senso che il livello di soddisfazione per gli acquisti online è molto molto alto, questo lo dicono un po' tutte le ricerche. Ovviamente questa cosa non deve succedere. Io ho questa diciamo speranza, ma anche un po' una certezza. Negli Stati Uniti, che è un mercato molto più avanti del nostro, il prezzo non è più il primo motivo per cui la gente compra online, è diventato il servizio al primo posto, la comodità, no? la tranquillità di comprare online e la scelta, quindi il prezzo è andato al terzo posto, è una cosa culturale ovviamente, perché anche negli Stati Uniti il prezzo è stato il primo motivo per comprare online. Io credo che quanto più ci abitueremo a comprare online, e le posso assicurare che sta veramente diventando un'abitudine, la gente lo dice agli amici, no? C'è un effetto palla di neve in qualche modo. Tanto più soprattutto gli operatori più seri si focalizzeranno non solo sul prezzo, che rimarrà probabilmente più conveniente come in tutto il mondo, ma soprattutto sul livello di servizio. Sulla serietà sul servizio, certo. Sì. Certo, questo è in effetti sono due punti molto importanti perché questi consumatori si fidino sempre più. Torneremo a parlare, io saluto i miei ospiti che sono stati con noi questi 15 minuti, Giorgetti e Schmeidler, che sono stati con noi. Subito dopo il meteo parleremo invece di libri, prodotti editoriali e social shopping. Salva Danaio. Allora, stiamo parlando di acquisti di Natale o acquisti in generale su internet. A chi ci scrive via SMS che facciamo magari pubblicità ad un settore che non ne ha bisogno, beh, posto che sia vero che non ne ha bisogno, ma di sicuro non facciamo pubblicità, e nella prova la telefonata che abbiamo mandato in onda del nostro amico che ci ha telefonato poco fa raccontandoci appunto che ha provato a fare un acquisto online, non è andata bene e sta andando proprio fisicamente in cerca la moglie di un regalo per il figlio, visto che non è andato a buon fine. E, tra l'altro, parleremo nell'ultimo quarto d'ora, vi preannuncio, proprio di come difendersi come utenti da questo tipo di difficoltà, oppure dalle truffe, oppure dai disservizi, i ritardi, gli acquisti di prodotti che poi si rivelano non conformi alle attese. Ne parleremo con l'Unione Nazionale Consumatori e parleremo anche di un codice etico per lo shop online. A questo proposito saluto i nostri ospiti, Fabio Regolo, presidente di Points, che poi ci spiegherà insomma che avete aderito a questo codice etico, e così buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS.it, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Con cui parleremo di libri e prodotti editoriali. Inizierei proprio con lei, Zerbini. Mi dicevano che IBS è conosciuta insomma per la vendita di prodotti editoriali, libri, musica e film. Mi sembra di capire che ci sia una tendenza quest'anno nel crollo dei videogiochi, è così? Sì, diciamo che le abitudini dei giovani stanno cambiando. I sì. giovani giocano online, i giovani giocano magari utilizzando i tablet e comunque sia in generale dedicano magari lo stesso tempo di prima stando davanti a uno schermo, ma magari oggi lo schermo è forse più quello di Facebook, non quello di una console per videogiochi. Quindi anche dagli ordini che vi arrivano per Natale vanno giù i videogiochi, cos'è che invece sale? I libri. Bene. E questa è una buona notizia, sì. Sempre. Salgono molto gli ebook, Sì. Sempre più persone si dotano di lettori e acquistano ebook, molto comodi da portare in giro. Tengono bene i dischi e devo dire che tengono molto bene anche grazie a degli ottimi prodotti di artisti italiani come Guccini, Zucchero, Battiato, Ramazzotti, usciti di recente. Bene, Fabio Regolo, allora, presidente di Points. Points che cos'è innanzitutto? È un gruppo d'acquisto online, posso definirlo così? Sì, oggi Points rappresenta un gruppo d'acquisto online, penso anche uno degli unici a capitale interamente italiano, che si occupa di social couponing. Quindi si va online, si trovano delle offerte di solito per servizi, no? Trattamenti, sì, cene, viaggi. Ecco, sì. Prima di tutto ci si iscrive, noi abbiamo quasi 2 milioni di iscritti che ci seguono, dove noi praticamente con la email marketing ogni giorno mandiamo le migliori offerte sia per città, sia per gusto, sia per appartenenza di categoria. Diciamo che ci sono vari altri siti ovviamente che si occupano di questo, tra questi forse il più famoso è Groupon, insomma ci sono ce ne sono ovviamente molti altri, certo. Tra l'altro i nomi sono sempre molto difficili e quindi è abbastanza semplice. Points, sì. Poi c'è Prezzo Felice, poi c'è Get Baza, Glamour, e Saldi, Guru Deal, insomma ce ne sono molti a cui ci si può rivolgere, ci sono dei coupon regalo, anche qui bisogna insomma un po' districarsi fra le offerte. Andiamo però a sentire qualche ascoltatore. Chiara da Cuneo, buongiorno, benvenuta. Chiara? Pronto? Pronto? Niente, non c'è Chiara. Luisa dalla provincia di Perugia. Sì, sono Luisa, non sono Chiara. Ah, no, beh, c'era un'altra ascoltatrice, si vede che l'abbiamo persa. Luisa, buongiorno, qual è la sua esperienza che ci vuole raccontare? Buongiorno, la mia esperienza è assolutamente positiva. Io ormai sono anni che utilizzo prevalentemente i sistemi di acquisto online al posto di quelli tradizionali e affidandomi però sempre a siti piuttosto noti, conosciuti, affidabili ovviamente. Facendo così ho trovato sempre dei benefici, non ho mai avuto esperienze negative. Laddove c'è stato qualche disguido poi sono sempre stata o rimborsata o comunque non ho mai subito delle perdite, non ho mai preso diciamo fregature, ecco, in questo senso. È da molti anni che si rivolge a questo tipo di commercio? Sì, direi che insomma da quando poi è diventato sempre più diffuso in Italia, ormai saranno almeno 3-4 anni e ultimamente è proprio la mia principale via di acquisto. Perché lo sceglie? Come, scusi? Perché sceglie questo tipo di shopping invece che andare in un negozio? Qual è la motivazione più forte? Gli prezzi, la velocità, non lo so. Sì, fondamentalmente la comodità. Il fatto che io non ho molto tempo per andare in giro e quindi quando poi sono a casa posso fare il mio shopping alle ore che mi pare, ho una enorme possibilità di scelta, soprattutto perché io vivo in un piccolo centro e quindi trovo su internet molta più possibilità di scelta rispetto a quella che troverei nei negozi vicini a me e anche e soprattutto direi il prezzo, perché cioè, i prezzi sono assolutamente competitivi, quindi questa combinazione di questi tre fattori per me è diventata fondamentale e direi che non potrei più insomma rinunciarci ormai. Grazie Luisa della sua esperienza. Zerbini, quali sono le previsioni per questo Natale? Voi avrete già ricevuto molti ordini, chi fa shopping online di solito si premura di fare un ordine abbastanza presto per non riceverlo poi in ritardo, immagino che abbiate già dei dati. Sì, allora per il momento il dicembre nostro online è superiore al dicembre dello scorso anno, di alcuni punti percentuali, che vuol dire è una buona notizia di questi tempi sicuramente, certo. Anche perché i prodotti che noi vendiamo, specialmente quelli librari, invece su altri canali, le librerie tradizionali, la grande distribuzione, invece soffrono sicuramente questo momento di crisi. Volevo dire una cosa su… Sì? Ciò che diceva l'ascoltatrice, perché Luisa ha sostanzialmente nella sua telefonata ha detto quelli che sono i principali quattro motivi che anche a noi risultano dalle indagini da noi fatte per cui la gente acquista online. Al primo posto la comodità, al secondo il risparmio di tempo, al terzo l'assortimento, la possibilità di avere dei grandi cataloghi di prodotti rispetto a quelli disponibili nella propria città, specie nei piccoli centri, e al quarto posto il prezzo. Quindi all'ultimo posto il prezzo? Secondo la vostra indagine? Beh no, poi ci sono altre cose dopo il prezzo, però il prezzo sì, non è ai primi posti, ai primi posti ci sono la comodità, il risparmio di tempo e l'assortimento, l'ampiezza dei cataloghi. Ho capito. Fabio Regolo, anche lei risulta che rispetto al commercio tradizionale, che forse è un po' sofferente, anche i vostri dati sono in controtendenza? Sì, sicuramente sono in controtendenza. Noi rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un più 85% di vendite, perciò sicuramente in grosso rialzo. A differenza appunto del collega di IBS, noi facciamo molti servizi, perciò servizi locali, di negozi, di esercenti, e allora sicuramente al primo posto invece da parte dei nostri iscritti è molto non soltanto la qualità dell'offerta, ma molto anche il prezzo. Noi facciamo anche dei prodotti, dei servizi, però sicuramente vendendo anche il servizio, non so, per dire il taglio di capelli, piuttosto che il ristorante, piuttosto che il food, che sta andando molto, moltissimo, soprattutto per questo Natale, è chiaro che il prezzo è una delle prime possibilità da parte dell'utente di andare a verificare delle offerte e scegliere proprio anche per le offerte. Certo, nel vostro caso in effetti può essere lo sconto, insomma sconti molto alti lo che attirano. Il negozio magari conosciuto, il brand di marca, ad esempio noi in questo momento come Natale abbiamo visto un'impennata del food, ad esempio abbiamo una straordinaria quindi offerta. Parliamo di cene, infatti, di cene. O di cene o addirittura di panettoni artigianali, dove uno magari con 12 euro prende un chilo e mezzo di panettone artigianale e contro un costo magari di 30 euro, perciò il fatto stesso che può essere da una parte l'idea regalo, confermo sicuramente un grosso interesse su tutta la tecnologia, sugli ebook, molto anche il tablet, noi ad esempio abbiamo degli ottimi tablet a 88-99 euro e questo abbiamo visto che è un'idea regalo molto apprezzata da parte degli utenti. Diamo anche voce agli ascoltatori. Angelo da Lodi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, mi ritengo un cliente delle vendite online veramente difficile, perché ci sono alcune cose che vanno bene, tipo appunto il prezzo, eccetera. Però altre cose che secondo me i signori che ci stanno ascoltando e altri responsabili di queste ditte online dovrebbero tener conto. Ad esempio? Per esempio, io mi sono trovato ad acquistare da un anno a questa parte online, anche per il prezzo, almeno per il momento è così, e io però ho trovato delle difficoltà sulla ricezione della merce. Quindi non le arrivava la merce o non le arrivava in tempo? No, più che altro non arrivava la merce negli orari più o meno che avevamo stabilito con il venditore, perché ci sono, vorrei dire a chi ci ascolta, che ci si può mettere d'accordo con il venditore tramite il corriere di cui si serve per potersi avere un arco di ore nella giornata, nell'orario in cui il corriere fa il servizio, ho per capito. Avere questa merce. Invece non c'è stato questo, o c'è stato questo accordo, ma poi invece non è andato a buon fine, non è stato rispettato l'accordo, giusto? I primi tempi l'accordo non è stato rispettato perché non mi trovavano in casa e le cose tornavano indietro, oppure rimanevano in giacenza al mercato, al magazzino del corriere, che però questo corriere era a 50 km da casa mia. Insomma, alla fine è più una difficoltà che altro la testimonianza di Angelo da Lodi. Grazie Angelo per la sua testimonianza. Abbiamo capito, tra l'altro ci sono anche degli ascoltatori via SMS che ci pongono più o meno lo stesso problema, il fatto delle consegne. La maggior parte delle persone, scrive un ascoltatore, non è a casa magari quando viene consegnata la merce. Questo può essere un problema. Io ringrazio e saluto Zerbini e Regolo che sono stati con noi in questo quarto d'ora. Adesso facciamo una piccola pausa e subito dopo parliamo proprio dei disservizi, di come difendersi quando si è oggetto appunto di qualche situazione che non ci piace, avere magari anche un rimborso. Salva Danaio. Stiamo parlando con voi oggi, ben ritrovati se ci avete seguito finora e benvenuti se invece iniziate a farlo ora. Stiamo parlando di e-commerce, di shopping online in vista anche delle feste, e ne abbiamo parlato con alcuni protagonisti. Vorremmo continuare a farlo in quest'ultima parte, invitiamo anche gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, continuare a farlo parlando invece di come difendersi in caso di disservizi, perché c'è anche questo, ci sono difficoltà di prenotazione, rimborsi che non sono a volte soddisfacenti. Questi sono i principali disservizi selezionati dall'Unione Nazionale Consumatori, ma anche altri, dai classici ritardi di consegna per i prodotti alla merce non conforme alle attese, come abbiamo sentito poco fa dal nostro ascoltatore, la difficoltà magari di trovarsi a casa nel momento in cui viene fatta la consegna, e poi insomma ci si ritrova con un pacco a 50 km di distanza, e questo può essere difficile. Come difendersi? Abbiamo in linea un ospite che ci aiuterà in questo, Roberto Liscia, presidente di Netcom. Voi, buongiorno innanzitutto anche a lei. Buongiorno a voi. E voi avete prodotto proprio un codice etico per lo shopping online, l'e-commerce, no? In brevissimo tempo, perché siamo proprio quasi in chiusura, quali sono le linee principali di questo codice e chi ha aderito? Sì, noi stiamo lavorando sia sul codice sia sul certificato di qualità, che sono due temi che danno sempre più garanzie al consumatore. Il codice di autoregolamentazione regolamenta un aspetto molto specifico, che sono i prezzi. Chi ha aderito al nostro codice, e ci sono operatori come Internet Book Shop che avete appena sentito, PointX che avete appena sentito, sono operatori che hanno scelto e hanno dichiarato e hanno sottoscritto che i prezzi, i saldi, gli sconti che sono esposti sul loro sito sono conformi a un riferimento che è quello di prezzi che effettivamente sono stati prezzi oggetti di vendita. Quindi riguarda per lo più i prezzi. I prezzi, nel senso che, come voi sapete, spesso in periodo di saldi si va in un negozio, si scopre che c'è uno saldo con uno sconto e poi in realtà il prezzo è stato aumentato per dimostrare uno sconto che in realtà non, certo, non avviene. Dove si può controllare? C'è un sito internet dove si può guardare questo codice e chi vi ha aderito? Assolutamente sì, sul nostro sito, e ci sarà nei prossimi giorni, perché scatterà nei prossimi giorni questo codice di autoregolamentazione a partire dal 1 gennaio, ci sarà sia la possibilità di ottenere il codice in formato completo sia i siti che hanno aderito. Questo è molto importante perché darà chiarezza al compratore, che sa che se un prezzo dice che è stato scontato del 30%, il prezzo di riferimento è il prezzo vero. Quindi al momento il codice però non è diciamo attivo. Che i siti che hanno già aderito di fatto lo fanno già. Il controllo avverrà da parte del 1 gennaio. Da gennaio, va bene, grazie. La seconda cosa molto importante è che dal 1 gennaio scatterà quello che è il sigillo Netcom. Il sigillo Netcom e tutti gli aderenti che utilizzeranno questo sigillo si impegnano, e questo sarà oggetto anche di controllo, a garantire che tutte le informazioni che ci sono sul sito sono rispondenti alle leggi, quindi l'impegno a ritornare il prodotto da parte, a rimborsare il prodotto da parte del compratore che lo rimanda indietro, piuttosto che la sicurezza sui pagamenti, la sicurezza sui dati, e anche ci sarà un elemento molto importante: noi verificheremo anche l'affidabilità creditizia del sito per vedere la solidità finanziaria del sito stesso. Grazie. Abbiamo in linea anche Sonia Galardo dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha pubblicato una guida online proprio per i consumatori. Buongiorno innanzitutto anche a lei. Buongiorno. Quali sono i disservizi principali e come difendersi? Ma noi abbiamo pubblicato questa guida che si chiama proprio Shopping Online, quali diritti, che è disponibile sul nostro sito www.consumatori.it. È stata inoltre realizzata in collaborazione con eBay, quindi è disponibile anche sul sito di eBay e sui rispettivi social network, proprio per guidare il consumatore sui acquisti sul web, perché sempre più spesso ai nostri sportelli arrivano segnalazioni di consumatori che o hanno delle perplessità nell'acquistare online, oppure appunto hanno riscontrato dei disservizi, come una merce che arriva in ritardo o anche una garanzia non rispettata. La guida è appunto divisa in 3 sezioni, nelle quali ricordiamo alcune semplici regole per acquistare in modo sicuro e far valere i propri diritti, ad esempio diffidare di prezzi troppo bassi e controllare in ogni caso le spese di spedizione, sia se si acquista in Italia sia all'estero per evitare poi delle brutte sorprese, difendersi da email e siti web contraffatti, quindi fare sempre molta attenzione, scegliere il venditore con cura e leggere i feedback del venditore per evitare di cadere in truffe, e scegliere anche strumenti di pagamento affidabili, quindi ad esempio evitare di ricaricare delle carte prepagate per acquisti o anche di inviare del denaro per posta. Ecco, una delle lamentele che viene fatta spesso è che i gruppi d'acquisto tendono un po', insomma, quando ci sono dei disservizi, a lavarsene le mani, attribuiscono a volte la responsabilità al fornitore. Se prendono il 50% del prezzo versato dall'utente, non dovrebbero anche rispondere in prima persona, farsi carico dei disservizi? Allora, dobbiamo ricordare che anche online valgono i diritti previsti dal codice del consumo, quindi il venditore è sicuramente responsabile anche nel caso in cui vi siano difetti di prodotti o comunque di servizi. Ricordiamo peraltro che su internet esiste il diritto di recesso, non tutti lo sanno, ma si può anche semplicemente cambiare idea, quindi entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo della merce si può decidere di restituire il prodotto, e questo vale anche per i servizi. In questo caso però i 10 giorni non partiranno dall'arrivo della merce, ma dalla sottoscrizione del contratto. In ogni caso, si è interrotta la comunicazione proprio in chiusura, mi spiace moltissimo. Purtroppo, tra l'altro, abbiamo finito la trasmissione, quindi non possiamo richiamare Sonia Galardo, che salutiamo e ringraziamo, dell'Unione Nazionale Consumatori. Come avete sentito, però, potete trovare online tutte le indicazioni per difendervi un po' se siete stati oggetto di qualche, speriamo no, truffa, ma insomma di servizio. Ringrazio anche Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è stato con noi. Mi scuso con Roberto Napoli e Aurelio della provincia di Milano, che ci stavano aspettando in linea per parlare con noi, ma purtroppo la puntata è terminata. Ringrazio Marco Lombardo in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani parliamo di case e mutui. Buona giornata a tutti, ciao, a domani.